Friuli nel mondo, 103esima trasmissione dedicata agli emigrati, voci e suoni di Furlania. Dopo un inverno eccezionalmente lungo e rigido, la primavera è finalmente apparsa e con il suo tepore accoglie le rondini. E appunto per questo, cari amici lontani, che vogliamo oggi farvi ascoltare in apertura di questa trasmissione la stupenda villotta La Viarte di Gallerio e Garzoni, dedicata appunto alle rondini, le quali con la primavera tornano a rivedere il loro bel Friuli. Canta il coro di San Giorgio di Nogaro, diretto da Bruno Sebastianutto. Sotto il tremolio delle stelle si intrecciano le serenate. Eccovi, suonata dal circolo mandolinistico di Udine, diretto dal maestro Prenna, la delicata e patetica serenata di Tita Marzuttini. Thank you. Ma la bella stagione, con il sole e i prati fioriti, porta anche il ripetersi delle tradizionali sagre friulane. Il componimento di Pietro Michelini dal titolo Il Ciampanon di Adornian, recitato a imitazione delle campane da Ottavio Valerio, è una filastrocca che ricorda appunto la sagra del paese. Sintì, Davon, la mecchianzon sul timpeton dal campanon. Cin si sfantaz e son sul tor, c'è brio, c'è braz, c'è da sia tor, io c'è braz, c'è da sia tor. Din don es gling, ding, din don es gling, ding el son sul col din quin, de confusion dal din dal don. El sagrestan, el capelan, el paesan, c'è gustean. Es glin don don, es glen den den, c'è chiacaron el campanon, astai da urcul chiafas las, us veni fur dal sol engaz, dal fond dal curi passaraz. Fior Pieri e lui, non scrivi al plui, din don parce, din dan par cui, e duce san, din don din dan, covin el gran strolic furlan. Marce, marce, marce, marce, quant che non de, non din, non dan, non din, non dan, che cence gran, cence levan, non si fa span, e cence pan, si mur di pan, pam, pam, pam, pam, pal gradoan, pam, pam, pam, pam, pal gradoan, ma si la fe che par plase, parce, parce, conturbas me. Un treseman col vi lontan da qualche anda e quel dal plan dal cil nostran no la sotman un scherz al gran strolic furlan gno don gno dan gno don gno dan e in conclusion din don coce melon ai mestagion un monte an al di due col dongol dan di un chavalzan a mi tipengo di un zorut anche l'inzengo di un velen parce parce con turbas me le lor impen le lor dove di far riflem ben ben ben ben perché li brut calva pardut ma in tan don don ma in tan dan dan el biel el bon al ven doman doman doman o c'è funzion c'è precision c'è confusion doman doman balle balon ya le chapon en digestion en tan din don en tan din dan culban culban ducel in man culban ducel culban ducel culban culban ducel in man.